Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Si chiama Velis Electro ed è il primo aereo elettrico al mondo ad aver ricevuto l'omologazione. È stato messo a punto dalla Pipistrel, un'azienda slovena fondata nel 1989, ed è stato certificato dall'Ufficio Federale dell'Aviazione Civile Svizzera, in collaborazione però con l'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza Aerea. Si tratta di un piccolo velivolo a elica, può trasportare due persone, ma stabilisce un precedente importante visto che si tratta appunto del primo velivolo a motore elettrico che ha ricevuto un permesso di volo che è valido in tutta Europa, insomma come tale stabilisce un precedente. Settimana scorsa il Velis Electro è stato esposto al Politecnico di Milano e noi è lì che andiamo per avere qualche dettaglio in più su questo aereo elettrico con l'aiuto di Lorenzo Trainelli, che è docente di progetto di velivoli e docente di sperimentazione in volo presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali. Buonasera, buonasera Trainelli, benvenuto. Buonasera, grazie dell'invito e buonasera a tutti i suoi ascoltatori. Allora, Trainelli, intanto le chiedo di descriverci un po' meglio questo aereo. Dunque, il Velis Electro è uno stretto parente di un velivolo che Pipistrel produce da diversi anni, che si chiama Virus, che è un velivolo che è stato anch'esso certificato. Nome che in questo periodo forse decideranno di cambiare, no? Sì. Non lo so. Anche Pipistrel da questo punto di vista. Ma procediamo. Questo velivolo appunto è stato già certificato precedentemente nella sua versione convenzionale, quindi propulsa da un motore a scoppio. Da questo è stato tratto una variante completamente elettrica, basata quindi su un sistema propulsivo che sostituisce il combustibile con le batterie e il motore alternativo con un motore elettrico in presa diretta sull'elica. Questo velivolo è stato certificato nella categoria LSA, Light Sport Aircraft, e quindi risponde a una serie di requisiti fissati dall'ente certificatore, che in questo caso, come anticipato, è EASA, l'Agenzia Europea per la Sicurezza del Volo, e che quindi consente di avere validità della certificazione in tutti i paesi dell'Unione. La categoria si riferisce a un limite di peso di 600 kg di peso massimo al decollo, okay, e un massimo di due persone trasportate. È un aereo, per capirsi, con un'apertura alare di poco meno di 11 metri ed è silenzioso o è normale questi 60 decibel per un aereo di quelle dimensioni? No, è estremamente silenzioso. Mm. È estremamente silenzioso e sostanzialmente riduce il rumore alla sola componente dell'elica. Quindi il rumore di un velivolo di questo tipo è dovuto principalmente a tre componenti: all'elica, al motore e un po' a quello che noi chiamiamo l'airframe, cioè la struttura generale del velivolo. Sì, il suono come l'automobile, il fruscio dell'automobile, diciamo così. Esatto, esatto. Il fruscio dell'airframe è piuttosto limitato e in questo momento se lei assiste al decollo di un Velis Electro si accorge di sentire il rumore molto molto più tardi rispetto a un analogo velivolo propulso da un sistema convenzionale, e sente di fatto solo il rumore dell'elica per un breve periodo. Quanto invece l'autonomia di questo aereo? Si parla di 50 minuti più una riserva, è un tempo congruo? Sì, è un tempo congruo per il tipo di missione per cui il velivolo è stato progettato. Il velivolo è un velivolo principalmente da addestramento e la missione di poco meno di un'ora è una missione del tutto congrua con queste finalità. Senta, che cosa implica il fatto che sia stata una prima dal punto di vista del processo di certificazione? Avranno dovuto studiare tutta una serie di criteri ad hoc? Sì, è così. Diciamo che la certificazione si svolge attraverso una negoziazione con un ente, in questo caso un ente sovranazionale, e Pipistrel ha portato avanti con molta determinazione questa attività. Tra l'altro sono molto contento di dire che il processo di certificazione è stato guidato da un nostro laureato, che in questo momento è il capo dell'ingegneria in questa azienda slovena, ma con una forte componente italiana. E la negoziazione ha riguardato una serie di aspetti che in precedenza non erano mai stati portati diciamo in campo in termini operativi, quindi è la dimostrazione di sicurezza fondamentalmente di tutti i sottosistemi del velivolo, certo, a partire naturalmente da quelli relativi al sistema propulsivo. Certo. È stato fatto un grande sforzo per assicurare la sicurezza delle batterie, del pacco batterie e del motore elettrico, che tra l'altro è anch'esso il primo certificato al mondo per scopi aeronautici. Senta, ma scalare, cioè immaginare che un domani ci possano essere aerei con più capacità di trasporto, più persone, a partire dall'evoluzione di questi primi aerei elettrici a elica è facile? Allora, non è facilissimo, ma è possibile. La scalatura è un problema fondamentale e coinvolge anche tipi di tecnologie diverse. Quindi lo scalare, per esempio, un motore elettrico e un pacco batterie a dimensioni di più grandi del velivolo può raggiungere soltanto, almeno in questo momento, una categoria di aviazione generale. Per andare che a vuol Milano, dire? Avere dei velivoli da trasporto, diciamo piccoli velivoli, velivoli da scuola, velivoli da diporto, però per arrivare a una capacità di trasporto effettiva, quindi a parlare di velivoli con delle prestazioni sufficienti e con una capacità di carico dai 10, diciamo, ai 19 passeggeri, abbiamo bisogno in questo momento di chiamare in causa degli altri elementi tecnologici. Per esempio, una delle cose su cui stiamo lavorando in questo momento è la progettazione di un velivolo 19 posti propulso da celle a combustibile a idrogeno, che quindi sarebbe un velivolo elettrico in cui la potenza elettrica viene fornita dalle celle a combustibile. Va bene, allora, grazie Trainelli, ci risentiremo. Grazie a lei e agli ascoltatori, a presto. Bene, ci fermiamo qui per intanto, l'appuntamento con Smart City torna domani, buona serata. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.